L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, l'Europa grande protagonista non solo in questi mesi, non solo in queste settimane, ma in questi giorni, in queste ore. Un'Europa che, ma sì, diciamolo, che fa emozionare grazie allo sport. Un'Europa che pare abbia preso coraggio dalle decisioni, insomma, anche positive di queste ore dei capi di Stato. Questa Europa che ci dà tanto da parlare, che tanta paura ci fa, che però insomma è anche uno stimolo, è anche un'opportunità, ed è quello che tentiamo di raccontare qui ogni sabato all'Altra Europa. Le coordinate per seguirci in diretta via Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, oppure via Twitter, @FedericoTaddia, e i nostri social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. L'Europa un po' tricolore di questa settimana, che non è solo Mario Balotelli, che non è solo Mario Monti, ma c'è anche una donna protagonista. Lo abbiamo scoperto per caso, perché sono quelle notizie belle che però difficilmente vengono riprese dalla stampa, e invece a noi piaceva renderla protagonista, iniziare con lei questa puntata. Si parla del Consiglio d'Europa, questa organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea, quella cosa che va al di là dell'economia, quella cosa che va al di là della politica. Beh, la nuova vice segretaria generale del Consiglio d'Europa è italiana, si chiama Gabriella Battaini Dragoni ed è qua con noi. Buongiorno Gabriella. Buongiorno. Allora, l'Europa è la grande protagonista, poi alla fine un po' ci si perde anche tra le mille istituzioni, le mille organizzazioni. Il Consiglio d'Europa di fatto è il primo grande mattone di questa voglia di Europa unita, vero? Assolutamente, visto che l'organizzazione è stata creata nel 1949 e che è stata creata proprio dopo il secondo conflitto mondiale, per permettere ai diversi paesi e ai diversi popoli di ritrovarsi, di vivere in pace attraverso la cooperazione e attraverso soprattutto un insieme di norme e di operati, di lavori, di attività che permettessero di facilitare questa riunificazione del continente europeo. Oggi abbiamo 47 stati membri, quindi l'organizzazione va dal Portogallo fino alla zona pacifica, direi, della Russia. Siamo un'organizzazione importante perché siamo proprio noi a rappresentare i valori fondamentali della nostra civiltà europea, che, come lei ricordava poco fa, sono proprio i valori della democrazia, del primato, del diritto e evidentemente della protezione dei diritti dell'uomo. Ecco, quando voi vedete, notate che insomma si parla di Europa e subito o solo si pensa all'euro, cercate di andare oltre a questo, immagino. Come lei sottolineava prima, al di là di queste norme, che sono comunque fondamentali perché costituiscono un nostro patrimonio comune in quanto europei, abbiamo anche importanti lavori nel settore delle identità culturali, sì, fondamentali per ogni popolo evidentemente, e abbiamo lavori importantissimi nel settore della giustizia sociale, non solo della democrazia, e sottolineerei che proprio democrazia, partecipazione e giustizia sociale sono i due grandi pilastri del modello europeo quando si guarda l'Europa vista da lontano e da altri continenti. Ora siamo consapevoli delle difficoltà attraverso le quali stiamo passando come continente e evidentemente sarà importante che proprio la promozione e il rispetto dei diritti fondamentali attraverso per esempio l'operato della nostra Corte Europea, sì, dei diritti dell'uomo, che è molto conosciuta in Italia, o attraverso attività di promozione, di integrazione di tutti quei gruppi che sono particolarmente vulnerabili in seno alla società. Ebbene, iniziative di questo tipo sono fondamentali proprio per permettere a noi in quanto europei di continuare a vivere, anche se attraverso politiche di austerità, in dignità. Direi che questo è il messaggio fondamentale che come organizzazione vogliamo trasmettere. Battaini, credo che sia una bella soddisfazione personale appunto questa nomina, però insomma è un onore anche credo per l'Italia, perché comunque ruolo ambito e lei lì a rappresentare tutto il nostro paese. Esattamente. Tenga conto che se la mia candidatura, dopo 35 anni di lavoro presso il Consiglio d'Europa, è stata accettata, è perché innanzitutto il nostro ministro degli affari esteri, Terzi, ha sottoposto la mia candidatura e perché, essendo stata io eletta dalla nostra assemblea parlamentare, sono stata fortemente sostenuta dalla nostra delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Questa delegazione era condotta ed è presieduta dall'onorevole Vitali ed è un'espressione perfetta della diversità e pluralità che esiste in seno al Parlamento italiano e al Senato, e quindi il fatto di essere sostenuta da una delegazione che si esprimeva in tutte le sue diverse diciamo componenti politiche è stato per me veramente un motivo di grandissima soddisfazione. Oltre al fatto evidentemente che il ministro Terzi e la rete diplomatica italiana in tutte le capitali europee si è mossa per sostenermi attraverso questa procedura di elezione. E Battaglini, in questi giorni, dove appunto l'Europa al centro, si è parlato tanto di Unione Europea, qualcuno ha anche detto una soluzione è un'Europa più integrata, una sorta di Stati Uniti d'Europa. Secondo lei, secondo voi, è una direzione? Cioè, in un momento in cui qualcuno mette in dubbio l'Europa, invece prendere con forza una direzione opposta, cioè cercare un'integrazione ancora maggiore, può essere veramente la svolta? Dal mio punto di vista, visto che ho questa esperienza di vari decenni di lavoro internazionale, la risposta dovrebbe effettivamente essere quella che lei indica, cioè maggiori livelli di integrazione. Lo so che può sembrare per molti cittadini forse difficile o addirittura improponibile, ma in realtà più noi rafforziamo i legami che abbiamo tra di noi come paesi europei, più riusciamo a gestire vari settori di politica, in parte anche economica, fiscale, non solo monetaria, più noi riusciamo ad avere un insieme di norme applicabili a tutti i nostri cittadini. Ebbene, creiamo come un popolo europeo con elementi di forte solidarietà che poi vengono anche a manifestarsi, e quindi in questo modo possiamo cercare insieme di fare un viaggio più solido e più forte attraverso questo momento, direi, di austerità così forte, di difficoltà che bisogna in ogni caso superare. E mi sembra evidente che la frammentazione, la separazione non conduce certo alla forza. Questo in ogni caso è anche l'esempio che ci danno altri continenti, che non stanno a diciamo lottare attraverso i loro paesi all'interno di se stessi, ma che si uniscono quando il momento è difficile e si sentono più forti. È un viaggio che ci piace, vogliamo esserci. Complimenti Battaglini e buon lavoro, perché il compito è tosto, c'è da lavorare, però sento dalla sua voce che l'entusiasmo non manca, e questo è assolutamente incoraggiante. Grazie ancora, buon sabato. Va bene, vi ringrazio anch'io, buona giornata. Europost-it. Lavoro, scambi e tirocini europei. Ci pensa Eurocultura. Eurocultura.it è un portale dedicato a giovani che sognano di trascorrere un periodo all'estero per studio o lavoro e a aziende italiane e straniere che necessitano di personale capace di destreggiarsi in un contesto europeo sempre più dinamico. Ma non solo. Eurocultura offre informazioni su corsi di lingua in Italia e all'estero, su opportunità di studio, volontariato e seminari. Eurocultura segue l'utente passo passo dalla stesura del CV all'application vera e propria. È un sito web aggiornato che mette in risalto offerte di studio e lavoro più o meno pubblicizzate, da tenere d'occhio assolutamente. Per maggiori informazioni visitate il sito eurocultura.it. Campi e chianti, calamari e colappe a me. Zuppa romana. Maccheroni, cannelloni, pepperoni e colappe a me. Zuppa romana. Bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, wow, Roma, Roma, Napoli, amore mio. Mozzarella, mortadella, carro. Italia e Germania è stato un po' il tormentone di questa settimana, prima su un campo di calcio, poi questa sfida tra Merkel e Monti, amici, nemici, colleghi, che però insomma, colleghi che a questo giro hanno avuto anche degli scontri, ma quegli scontri costruttivi da cui insomma si parte da posizioni diverse, ma si tenta anche di arrivare o di avvicinarsi a una posizione comune. Ed è stato tutto un brulicare di mille sociologie, mille dietrologie, mille antropologie tra i rapporti tra Italia e Germania. Beh, l'Unione Europea passa anche dall'incontro tra le culture diverse, dalle contaminazioni, che è una parola che ci piace, perché vuol dire non perdere la propria identità, ma avere anche il coraggio, la voglia, l'apertura di assaggiare l'identità altrui. E assaggiare forse è il termine adatto per il viaggio che andiamo a fare adesso, un viaggio culinario, un viaggio di ricette per imparare a capire il tedesco e i tedeschi, con questo libro intitolato Fritz Misto della Murcia, scritto da Renata Beltrami e Ursula Conche. E Ursula è qua con noi. Ciao Ursula. Salve. Buongiorno, tu sei tedesca, vero? Io sono tedesca, sì. E però insomma hai una definizione bellissima che ho letto nella tua biografia, che è nomade europea. Come si diventa una nomade europea? Vabbè, io sono nata in Germania, parte della mia infanzia l'ho passata in Italia, ho fatto la prima elementare a Brescia, poi ritornata in Germania con i miei genitori, cresciuta a Colonia, poi mi sono data allo studio dell'italiano, della cultura, della letteratura italiana all'Università di Colonia e anche di Pavia. E poi anche dopo gli studi sono entrata nella scuola tedesca insegnando italiano e tedesco e dopo essermi sposata ho avuto 4 figli. Mi sono spostata con mio marito in altri posti, per esempio alla fine a Londra, dove ho incontrato Renata Beltrami con cui ho fatto questo libro. Mm-hmm. E insomma, quindi la parola contaminazione tra culture, tra identità nazionali, tu l'hai vissuta, l'hai fatta tua e hai continuato anche nella tua attività professionale a mediare tra le varie culture, e questo libro appunto nasce proprio anche con questo intento. Che cos'è Fritz Misto? Cosa avete voluto trasmettere? Abbiamo messo insieme alcune ricette tedesche, seguendo un po' i pregiudizi degli italiani verso la cucina tedesca, per dimostrare che la cucina tedesca, se mai esiste, offre delle cose interessanti, spiega perché i tedeschi mangiano certi piatti, ma non abbiamo seguito un filo conseguente. Abbiamo messo un po' insieme alcune cose senza essere molto sistematiche. Mm-hmm. Si passa dai Krafen ad Hansel e Gretel, insomma, in leggerezza, perché appunto è un viaggio anche culturale all'interno, l'arte culinaria. C'è secondo te una ricetta che è un po' metafora del libro? C'è una ricetta che più delle altre racconta o fa capire chi sono i tedeschi? Beh, ce ne sono vari. Per esempio, molti popoli in Europa ci chiamano gli inglesi dicono i krauts, voi dite i crudi, cioè i krauti e tutte le ricette per il cavolo sono ricette tipicamente tedesche. Mm-hmm. Secondo me queste ricette rispecchiano un po' anche la nostra storia, le carenze che ci sono state durante i secoli, e persino oggi nella cucina moderna tedesca che tenta di essere regionale e stagionale, i crauti hanno di nuovo o il cavolo ha un nuovo significato, diciamo. Mm-hmm. Così. Tu in questo momento dove sei? In Italia o in Germania? Sono in Germania. Sei in Germania? Vi siete ripresi dalla sconfitta? Cioè, nel senso, è stato un momento di depressione un momento di depressione collettiva o no? No, insomma, è un gioco. Sì, ma naturalmente in tutti i giornali adesso ci sono le analisi perché i tedeschi hanno perso questa partita. E ma io penso che l'uno o l'altro se l'aspettava, perché gli italiani sono ritenuti come calciatori, diciamo, individualisti, sì. che non seguono le regole. Invece il nostro allenatore tedesco, il Löw, penso che lui abbia dato certe regole ai suoi calciatori. Loro con queste regole non potevano fare niente, perché gli italiani hanno giocato in una maniera molto non da prevedere. Ho capito, quindi insomma la creatività italiana a questo giro ha avuto la meglio. Esiste una ricetta consolatoria? Cioè dopo la partita, tra le mille ricette che anche voi avete raccontato, ce n'è stata una secondo te più gettonata degli altri, oppure c'è stata una ricetta preparatoria? C'è un piatto tipico legato allo sport, legato al calcio? No, immagino. Allo sport non ce l'abbiamo, no. Però nella Süddeutsche Zeitung, che è un grande giornale nazionale tedesco, Henning Klüver ha dato un consiglio agli italiani, si riferisce al nostro libro, per la prima colazione. Voi italiani avete soltanto, non so, un cappuccino, una brioche, un biscotto, e noi la cultura della prima colazione da noi è molto elaborata. E per esempio nel nostro libro ci sono due ricette, una per il Katerfrühstück e l'altra per il Sektfrühstück. Sektfrühstück è una colazione con spumante, con champagne. E Katerfrühstück è una colazione a base di non so, cetrioli, pesce, dopo una serata con tanto alcol, quando uno si ha mal di testa, si sente male. E lui, prima della partita, questo articolo è stato scritto giovedì è sì. uscito, e dice che gli italiani adesso possono scegliere che specie di colazione prendono venerdì. Allora hanno avuto tutta la ragione di prendere un Sektfrühstück, una colazione post sbornia, sì, okay. Con champagne e tutte belle cose, esatto. Con caviale, tutte belle cose che si possono, con cui si possono festeggiare una partita vinta. Ok, grazie davvero Ursula. Ricordiamo Fritz Misto, questo divertente libro con tante ricette, le ricette per imparare a capire il tedesco e i tedeschi della Mursia. Ciao, grazie Ursula, buon sabato. Buon sabato altrettanto, arrivederci. Europostet. Botte piena e moglie in spalla, è in Finlandia la gara per mariti forzuti. Avviene a Sonkajärvi, cittadina finlandese situata nella regione del Savo settentrionale. Qui il 6 e il 7 luglio si terrà il campionato del mondo di trasporto della moglie, in finlandese Eukon Kanto. In cosa consiste? Gli uomini devono attraversare un percorso a ostacoli lungo 250 metri, tra dossi e pozze d'acqua, portandosi la moglie in spalla. La donna deve avere più di 17 anni e pesare minimo 49 kg. Nel caso questa fosse più magra, verrebbe appesantita con una zavorra che le faccia raggiungere il peso regolamentare. Il vincitore si porta a casa una quantità di birra equivalente al peso della moglie. Si dice che l'evento tragga la sua origine dall'abitudine di un famoso brigante del luogo di rubare le donne dai villaggi vicini portandosele via in spalla. Per maggiori informazioni visitate il sito eoconcanto.fi. Adesso andiamo a scoprire che cos'è l'Europa, andiamo a scoprire cosa succede dentro l'Europa, dentro al palazzo, andiamo a scoprire quelli che sono i processi decisionali all'interno dell'Unione, e tutto ciò lo si può scoprire attraverso una simulazione, attraverso un percorso che viene riproposto dopo la prima edizione lo scorso anno. Questo modello dell'Unione Europea ha riscosso tanto successo e quindi viene riproposta questa iniziativa. Per capire bene di cosa si tratta abbiamo con noi uno dei responsabili del MEU, modello dell'Unione Europea. Siamo in Albania, con noi Vladimir Tano. Ciao Vladimir, benvenuto all'Altra Europa. Salve Federico, grazie. Ciao, grazie mille. Tu sei un giornalista. Un abbraccio forte per tutti gli azzurri e per tutti gli italiani che si seguono a questo interessante programma verso il Soliventi sotto la radio 24 ore. Grazie, mi hai fatto un promo fantastico, Vladimir. Raccontaci un po', che cos'è di fatto questa 4 giorni? Saranno 150 i selezionati che potranno accedere a questo grande gioco, perché di fatto farete giocare ad essere parlamentari europei, ho capito bene? Sì, hai capito bene. Noi non giochiamo a pallone nell'Unione Europea, ma è una devo parlare un po' della Model European Union. Model, sì? European Union è una simulazione unita del processo decisionale e delle politiche. La Model European Union è un simulation game che è fatta anche nei altri città della Unione Europea, anche nel Strasburgo ogni anno, nella sede della Unione Europea, i giovani da tutta Europa sono presenti per simulare questo progetto. Ma anche nei confini dei Balcani, come l'Albania e Serbia e tutte le altre città o le città, hanno la possibilità di fare una simulazione. Ma parliamo un po' della Model European Union Albania, sì? Che cos'è? Mm-hmm. Come l'ho detto, è una simulazione unica del processo decisionale delle politiche che si svolgono ogni anno e riuniscono giovani europei altamente qualificati e motivati. Ma questi giovani non sono soltanto da Tirana o dalle altre città dell'Albania, ma sono studenti molto bravi dai Balcani, dall'Europa, confino anche con gli italiani sono partecipanti di questo modello. Ma che cos'è un modello? Cosa si fa di fatto? Cioè, questi 150 giovani si trovano per 4 giorni e? Sì. Loro prima di dire che cos'è, posso dire che tutti i giovani sono molto curiosi di conoscere il funzionamento del Parlamento europeo, sì, e anche la maniera come fare decisioni, come muoversi, come fare un po' di compromessi e tutte queste cose. Diciamo che la politica è un'arte che non è facile, ma è un'arte che potrà essere tradotto, è come un modello per i giovani, per conoscere e per integrare integrare tutte le capacità mentali che hanno in una tavola con altri giovani da tutta Europa. Certo, perché comunque lì dovranno assumere dei ruoli, cioè quello che sarà un parlamentare, quello che sarà un ministro, chi sarà un giornalista, quindi tutte le dinamiche che vengono all'interno dell'Unione Europea, lì i ragazzi le possono sperimentare direttamente. Sì, i ruoli sono precisamente come un MEP, il membro del Parlamento europeo, sì, membro nel Consiglio dei Ministri, che ci sono 27 giovani che possono giocare come i ministri dei stati, per esempio Italia, Germania, sì, Slovacchia, tutte 27 nazioni ministri della Unione Europea. Abbiamo anche i giornalisti che fanno un giornale per ogni giorno. Voi lo sapete che i cittadini europei vogliono essere informati per come vanno i processi della Unione Europea e la decisione, se la decisione è trasparente o no, se il dibattito che i parlamentari fanno in Unione Europea sono dibattiti per tutti i cittadini o no. Per questa cosa noi abbiamo 2 proposte per questo anno. Sì? La prima proposta è una direttiva del Parlamento Europeo e il Consiglio sull'uso della registrazione dei dati dei passeggeri per la prevenzione, individualizzazione, investigazione e la condanna dei reati e crimini terroristici. Va bene. La proposta verrà dibattita nel quarto della procedura legislativa ordinaria. Che cos'è questa? Questa è che dopo che i 100 parlamentari europei fanno una, nel modello dell'Europa albanese, fanno una brief description per le proposte, vengono a fare compromessi con il Consiglio dei Ministri per questa proposta. Certo, quindi loro possono avere tutte le capacità di contribuire e di fare compromessi e di fare tutte le cose con trasparenza e fare tutte le cose con il giudizio. I cittadini europei hanno i diritti di essere insomma rappresentati e poi insomma. Tano, ti ringrazio perché il tempo corre, diamo le coordinate. Allora, entro il 5 luglio ci si potrà iscrivere, tutto ciò sarà poi a Tirana dal 10 al 14 ottobre. Le informazioni logistiche per capire chi può partecipare e appunto approfondire un po' la conoscenza di questa iniziativa, il sito è www.meu.al. Mettiamo immediatamente le coordinate anche sulle nostre pagine in Facebook. Ciao Tano, grazie, buon lavoro, magari ci risentiamo. Grazie mille Federico e un abbraccio forte per tutti. Ci risentiamo durante la simulazione, così andiamo a scoprire quello che veramente i ragazzi stanno facendo. Ciao e buon sabato. A tutti domani. Ciao, grazie. We have to take into consideration that Armenians are minorities in every single Arabic country, and any kind of conflict from any side is a threat to their safety, to their, because they don't know who might come that is against those minorities, who's against the Armenians. That's something unknown that always puts a fear in any kind of minority in any kind of any country. So quello invece che stiamo ascoltando sono alcune voci sulla primavera araba. Stiamo andando ai confini dell'Europa, stiamo andando in Siria. Di Siria si è parlato tanto in questi giorni, soprattutto per i rapporti burrascosi con la Turchia, ma di Siria si sta parlando tanto in questi mesi per quello che sta accadendo, il fortissimo attacco alla società civile, come quello che sta succedendo dentro alla Siria non è chiaro, le informazioni sono poche e soprattutto non è chiaro il comportamento anche dell'Unione Europea, l'abbiamo detto tante volte. Siria protagonista, Siria che è lì alle porte dell'Europa, e volevamo fare uno scarto, volevamo fare un approfondimento, volevamo capire che cos'è la Siria oggi e cosa rappresenta tutta quell'area. E per farlo abbiamo invitato Paolo Martino, che è un corrispondente dell'osservatorio Balcani.it, che ha fatto un lungo viaggio, un lungo reportage, e da ieri è stata pubblicata la prima puntata di questo reportage, osservatoriobalcani.it, per andare a leggere appunto la prima tappa di questo viaggio che ha fatto e viaggio che ci racconta. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Insomma, i rapporti tra parlare di Europa e parlare di Siria sembrano due mondi completamente lontani, invece gli intrecci sono tantissimi, perché comunque c'è una vicinanza che magari non è geografica, si parla di vicinanza geografica con la Turchia che è la porta, però sono i mille rapporti che ci sono. E tu hai fatto un viaggio lungo, da dove sei partito e dove sei arrivato? Allora, diciamo che il mio viaggio in qualche modo nasce, soprattutto l'idea di questo viaggio nasce in Medio Oriente, da lì ho modo di vivere a contatto con la comunità armena, che è una delle più grandi che si trova in quella regione, anzi diciamo il Libano ospita la comunità armena più grande del Medio Oriente, e da lì ho cercato di raccogliere un po' gli elementi che caratterizzano la diaspora armena medio orientale, e a quel punto ho deciso di partire per il Caucaso e di mettere un po' a confronto con le caratteristiche invece degli armeni che vivono proprio in Armenia, quindi nella Repubblica Armena del Caucaso. E questo naturalmente mi ha in qualche modo permesso, diciamo così, di viaggiare in un territorio molto vasto che va appunto dal Caucaso attraverso la Turchia orientale, che è la regione in cui si concentrava la minoranza armena prima del 1915, quindi prima del genocidio armeno, e poi attraverso il Medio Oriente, in Siria, in Giordania e di nuovo appunto fino a Beirut. e da qui un po' il titolo del mio reportage dal Caucaso a Beirut. Diciamo che la mia ricerca così mi ha messo a confronto sia con il passato e con la storia tragica di questo popolo, ma anche col presente, e quindi nel rapporto con gli eventi che stanno sconvolgendo la regione, in particolare quello a cui facevi riferimento, la primavera araba e la rivoluzione siriana. Questo viaggio l'hai fatto da europeo, e nel senso, quale occhio, quale atteggiamento ti ha accompagnato? Quello del giornalista, quello del curioso, quello che si vuole attuffare in una cultura altrui, però con occhio distaccato, perché comunque la volevi capire, o ti sei fatto immergere anima e corpo? Ma diciamo che in questo senso mi ha aiutato un pochino l'esperienza che avevo fatto fino al momento in cui ho deciso di partire, in quanto già da circa un anno vivevo a Beirut, e questo mi ha permesso così di assorbire più possibile alcuni aspetti sia della quotidianità, appunto, che della mentalità, in qualche modo, della diaspora armena medio orientale. Dimentichiamo che questa minoranza, in qualche modo, vivendo appieno le problematiche del Medio Oriente, in particolare, torno a dire, quella Siria, in quanto quanto sta accadendo in Siria viene vissuto passivamente dalla comunità armena, che è spaventata in qualche modo dal cambiamento, dall'ignoto, dal salto nel buio, in qualche modo. Diciamo che l'aver avuto a disposizione questo tempo sicuramente mi ha aiutato anche a maturare così un punto di vista meno giornalistico, o almeno questo era, insomma, l'obiettivo. Poi il resto l'ha fatto in qualche modo il viaggio dal Caucaso, dall'Armenia a Beirut. Mi sono potuto fermare lungo il percorso in tutti i luoghi più, diciamo, simbolici di questa storia, concentrandomi appunto nella Turchia orientale, che appunto nella memoria armena invece viene definita come l'Armenia occidentale, e quindi in tutte le regioni in cui ha avuto luogo così la storia e il passato degli armeni. Poi il passaggio dalla Turchia alla Siria, che sicuramente è stato quello più in qualche modo drammatico, e il contatto appunto con gli armeni siriani, e con la maturazione di questo punto di vista sulla questione, che diciamo che presenta molte sfaccettature, ma tendenzialmente è molto, molto critico e molto, come dicevo prima, dominato un po' dalla paura. Paolo, un'ultima domanda, appunto, leggeremo poi nei dettagli tutto ciò che hai vissuto attraverso i cinque sensi, perché il bello di un viaggio, di un reportage, è anche questo, avere il tempo per raccontare l'esperienza totalizzante. Ecco, hai trovato tracce di Europa, soprattutto nel passaggio dalla Turchia alla Siria, e anche come vedono loro l'Europa? È un'entità astratta, è un qualcosa a cui tendono, è un qualcosa di cui hanno paura, che è una parola che ha fatto un po' da forse colonna sonora anche, come ci hai detto, del tuo camminare. Ma guarda, parto dalla seconda domanda per dirti che il rapporto con l'Europa è molto molto fitto e viene percepito continuamente dalla diaspora armena medio orientale. Basti pensare che proprio da Beirut sono partite ondate diciamo il flusso di armeni che poi espandono la diaspora anche in Europa passa proprio da Beirut e dal Medio Oriente, quindi in qualche modo è un contatto continuo, per cui l'Europa viene percepita come diciamo in qualche modo una sponda, ecco. Sicuramente invece rispetto alla questione dei rapporti tra Turchia e Siria, la questione è più complessa, nel senso che il confine turco-siriano che è sotto gli occhi del mondo, per quanto potrebbe appunto avvenire in caso di un intervento della comunità internazionale in Siria, è proprio la regione in cui gli armeni vivevano fino al 1915, quindi in quel caso viene percepita più a livello storico e di appunto identitario che come un dato attuale. Sicuramente l'Europa resta sempre, questo sia nel Caucaso che in Medio Oriente, resta sempre un punto di riferimento, sia culturale, ma anche paradossalmente gli armeni sentono in qualche modo di rappresentare una radice di quella che poi è la comunità armena europea. Certo. Grazie davvero Paolo, complimenti per il tuo lavoro. Ricordo ancora che potete seguirlo di settimana in settimana su osservatoriobalcani.it. Ciao, grazie Paolo. Ciao, grazie a voi. Un registratore da accendere per raccogliere i rumori, i suoni delle varie culture. Lui lo fa da anni nei suoi 1000 progetti e adesso sta alzando le vele per una nuova iniziativa. Si chiama Andrea Zuin, un musico viaggiante, laureato in musicologia, diplomato in chitarra classica, che insieme al suo compagno di viaggio Diego Rizzo sta per partire per questo progetto One Song for People. Ciao Andrea, cosa stai combinando? Ciao a tutti, sì, il progetto prevede di gonfiare le vele, ma per adesso siamo fermi in coda in prossimità di Imola. Beh, è partita malissimo, però è una partenza da italiano medio, diciamo, ecco. Esatto, sì, però è anche bello identificarsi con il popolo, infatti oggi a muoversi siamo in tanti. Ecco, dove abbiamo veramente pochi secondi per dare il là alla vostra iniziativa, che sicuramente invece sentiremo e vi contatteremo quando sarete nel cuore dell'Europa, che andate ad ascoltare di fatto. Sì, l'idea è proprio quella di ascoltare, come hai detto tu bravissimo, il suono di quest'altra Europa per trovare le connessioni sociali attraverso la musica. Noi appunto siamo convinti che attraverso questa arte, che è quella che più manipoliamo tra virgolette io e Diego, saremo in grado di capire meglio cosa succede, quali relazioni ci sono e soprattutto di sopire un po' le tensioni che ci sono state nel passato e che purtroppo esistono anche ancora oggi tra questi popoli, che ricordo sono quelli del Montenegro, dell'Albania, della Grecia e ovviamente l'Italia. Voi andate alla ricerca di musicisti che poi volete imbarcare con voi, è un po' questo il progetto. Allora, in brevissimo, la missione è proprio quella di partire dal Salento con una barca a vela e per cercare questi musicisti in questi rispettivi paesi che ho appena spiegato, con l'obiettivo di imbarcarli il prossimo anno. Questa è solo la fase di avanscoperta. Il prossimo anno questi musicisti vorremmo imbarcarli per creare questa nuova colonna sonora, una musica di fusione che dia la prova di tutto quello che ho detto prima. Ecco, ma e adesso cosa fate invece? Se ho capito bene, a bordo di un camper andate alla ricerca di questi possibili compagni di viaggio? Esatto, questa è la fase di avanscoperta, parte proprio oggi appena arriviamo al porto e la missione è proprio quella di incontrare questi musicisti che ancora non conosciamo e quindi proprio di andare in cerca. L'aspetto bello di questo progetto è che vogliamo far vivere in prima persona chi vuole la nostra idea, la nostra iniziativa, ossia possiamo imbarcare persone dentro questa barca a vela che possa seguire con noi questo progetto. One Song for People è il titolo www.ilcamminodelamusica.it, invece è il sito per conoscere tutti i dettagli, perché si può anche dare una mano per appunto affinché si possa concretizzare questo onirico progetto, perché c'è una parte onirica da sognatori che mi piace, che mi piace, e vogliamo quindi sottoscriverlo anche noi a modo nostro. Ciao Andrea, buon viaggio da Imola in poi e ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Grazie. Grazie mille, ciao a tutti. E questo grazie arriva anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, e un grazie anche alla squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina e Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza e Paolo Corleoni alla parte tecnica, radio24.it per riascoltarci e per seguirci, l'Altra Europa @radio24.it invece se volete contattarci. Ancora buon sabato da Federico Taddia.